Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla Rassegna Stampa Europea. Come immaginerete, parleremo di Grecia, però prima di parlare della Grecia, e naturalmente non abbiamo ancora la soluzione in mano né quindi i commenti definitivi su un accordo che non c'è, parliamo un po', perché mi fa sorridere molto la vignetta che ho sotto gli occhi, di questa della strana coppia Merkel-Hollande. Sappiamo che c'è stato per tantissimi anni, c'è ancora un asse franco-tedesco, e però secondo l'articolo che come ogni settimana ho pescato su PressEuropa.eu, sapete il sito che ci aiuta a monitorare quotidiani, magazine e settimanali che non sono in lingue facilmente accessibili, su questo sito c'è un articolo apparso su siti ucraini e quotidiani ucraini che parla appunto di François e Angela, e lì in un'ambulanza alla guida c'è Hollande, di fianco a lui come navigatrice c'è Angela Merkel, e sembrano appunto arrivare in grande spolvero su un'ambulanza per soccorrere. In realtà le operazioni di soccorso che hanno fatto, e qui il riferimento è in particolare alla crisi ucraina, non hanno avuto molto successo. Allora appunto in questo articolo si spiega che il partenariato franco-tedesco ha svolto un ruolo essenziale nella creazione e nell'unificazione dell'Europa post-bellica. I due paesi sono sempre stati più forti sul fronte dell'integrazione europea, che ha visto la creazione di un mercato e di una moneta unica, però meno sul fronte bellico e diplomatico. A seguito della crisi ucraina, Parigi e Berlino, questa è l'opinione molto dura, molto tranchante se volete, di questa parte dell'opinione pubblica ucraina, hanno trasformato l'Unione Europea in un blocco commerciale aggressivo e imposto pesanti sanzioni alla Russia. Allo stesso tempo la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande hanno adottato un approccio estremamente reattivo, senza una leadership a lungo termine, in grado di trasformare l'Unione Europea in una vera potenza strategica degna del suo peso economico. E qui veramente torniamo sempre a quel tema che è fatta l'Europa dal punto di vista economico, ora sarebbe, dopo tanti anni, l'ora anche di darle un peso politico, ma sappiamo quanto sia difficile, e non è soltanto per la questione ucraina, ma pensiamo naturalmente anche a quella dell'immigrazione. A proposito invece noi di Italia, per una volta, cito l'Economist perché il numero in edicola è ieri. In realtà la copertina è dedicata ai problemi che ha in questo momento il Medio Oriente, e sono articoli molto interessanti, però è altrettanto interessante l'analisi che si fa delle elezioni regionali che si sono svolte domenica scorsa in Italia. Il titolo dell'articolo è Renzi checked, cioè il tagliando fatto da Renzi, e la conclusione è un po' quella che hanno tratto anche tanti commentatori qui da noi, cioè che comunque di sconfitta non si può parlare. Però secondo l'Economist Renzi ha perso un pochino del suo spolvero. The Italian Prime Minister loses some of his shine. La cosa che ho trovato interessante è che, come sapete, l'Economist ha un cosiddetto firewall, cioè se voi lo comprate in edicola, perfetto, ma se invece andate sul sito solo alcuni articoli sono disponibili, e in generale sono quelli che l'Economist pensa di avere il maggiore interesse a diffondere, oppure che verranno letti dalla maggior parte delle persone, e che quindi nel ragionamento di chi costruisce i siti parzialmente a pagamento stimoleranno le persone poi a fare un abbonamento. Ecco, questo articolo sull'Italia e su Renzi è tra i pochi, perché sono l'assoluta minoranza, che appunto si può leggere. L'ho trovato interessante perché vuol dire che insomma innanzitutto magari si spera che ci siano sempre più lettori italiani in grado di leggere l'Economist, che scrive in un inglese abbastanza complesso, o che comunque ci siano tanti lettori anglofoni che sono interessati alle nostre vicende. Naturalmente il focus è anche sul successo del Movimento 5 Stelle e soprattutto su quello della Lega, e sul fatto che se Salvini vuole diventare il leader del centrodestra, anche qui non sono cose nuove, sono cose di buon senso dette anche da molti nostri commentatori, deve darsi una facciata un pochino più presentabile anche a livello europeo. Vi segnalo poi invece dall'internazionale, sempre in edicola questa settimana, un lunghissimo, fortissimo e molto interessante approfondimento sulla crisi greca, appunto. In copertina c'è il ministro Varoufakis, il ministro delle finanze greche, che abbiamo visto insomma essere al centro delle cronache per tanti motivi, persino perché ha una moglie, pare, molto ricca, e quindi alcuni aspetti della sua vita sono davvero benestante e qualcuno l'ha attaccato per questo, ma insomma qui invece c'è un, soprattutto dalla copertina viene richiamato un articolo pubblicato dal New York Times che, come abbiamo notato nelle settimane scorse, sta seguendo con molta attenzione la crisi greca, perché naturalmente è in relazione all'Eurozona e all'Unione Europea, che è sempre stato definito dai giornali americani, con tra l'altro in testa quelli economici come il Wall Street Journal, il grande malato, tutta l'Unione Europea, non soltanto la Grecia. Ecco il titolo dell'articolo del New York Times, il nemico dell'austerità, e lo trovate dalle pagine 38 in poi di Internazionale, di Susie Hansen, e vi leggo il sommario. La Grecia continua a battersi per evitare l'insolvenza e il ritorno alla dracma. Il ministro delle finanze Varoufakis è diventato il simbolo della lotta contro le politiche di rigore imposte dall'Europa. Noi l'abbiamo un po' seguita questa lotta, non siamo stanchi, perché speriamo che finisca bene, finisca con un accordo, finisca con una nuova pagina dei rapporti tra la Grecia, che sicuramente in passato si è macchiata di tra virgolette crimini terribili come l'aver falsificato completamente i suoi conti pubblici, però adesso potrebbe iniziare un nuovo capitolo. Certo, bisogna sbloccare questa questione del rimborso dei prestiti al Fondo Monetario Internazionale e anche eventualmente la rinegoziazione di un altro finanziamento, perché come sappiamo la BCE continua a intervenire per dare liquidità alle banche greche, da cui molti greci continuano a ritirare soldi. Sempre su Internazionale un articolo pubblicato invece da Le Monde a proposito di cambiamenti dell'Unione Europea, anche qui ne parliamo sempre, ma è un tema che ci accompagnerà nei prossimi mesi, ed è quello che l'Unione Europea, United Kingdom, quindi il Regno Unito, farà per restare o non restare nell'Unione Europea. In questo caso, ricordiamo, non è come la Grecia di cui si paventa la Grexit, qui stiamo parlando di Brexit, ma sarebbe una vera e propria uscita dall'Unione, perché la Gran Bretagna, come sappiamo, non è mai entrata nell'Eurozona, si è tenuta stretta la sua sterlina, quando invece noi a partire dal 1 gennaio del 2001 abbiamo cominciato a scambiarci gli euro. Le Monde scrive che nelle sue visite a Berlino, Parigi, Varsavia e Amsterdam il premier britannico, che ha fatto questo giro diplomatico, è stato accolto con prudenza e qualche apertura. I negoziati sulla riforma dei trattati non saranno facili, perché questo è quello che Cameron sta cercando di fare in vista, come abbiamo detto tante volte, di quel referendum che lui aveva promesso entro il 2017 ai suoi concittadini britannici, ai quali chiederà: volete o no restare nell'Unione Europea? E che però, dopo il suo trionfo elettorale, nel quale ha avuto un certo ruolo, una presa di posizione più dura verso l'Unione Europea, ecco, dopo il suo trionfo elettorale questa data è stata anticipata al 2016. Elezioni molto interessanti anche quelle che ci saranno proprio domani in Turchia. Ne hanno parlato tanto i giornali in queste settimane, perché il premier Erdogan, che negli anni, lo sappiamo, si è fatto via via più duro, più fondamentalista, più amico delle frange più estreme, politiche più estreme, ma anche religiose più estreme del suo paese. Tanti avevano sperato che la Turchia potesse restare veramente questo esempio di democrazia islamica. Per ora lo è ancora, però Erdogan sta dando dei brutti segnali, per esempio appunto di estrema aggressività verso tutta la stampa che non è amica, ma anche soltanto leggermente critica. E allora scrive il quotidiano Hurriyet Daily News che le elezioni appunto di domani potrebbero, profezia che speriamo non si avveri, aggiungo io, segnare la fine della democrazia e il trionfo del progetto autoritario della KP. E ci sono appunto molti giornalisti, tra l'altro Erdogan ha attaccato anche i giornalisti occidentali, oltre che ai suoi, addirittura lui naturalmente vorrebbe tutti, e lo ha fatto anche in passato, di incarcerare giornalisti non amici, vorrebbe che appunto chi parla male di lui o del suo governo finisse direttamente in galera. Tra l'altro l'ultima polemica riguarda le sue ricchezze personali, perché secondo appunto molti media americani, per esempio, vivrebbe veramente nello sfarzo, e comunque la Turchia, che è un paese sicuramente che ha conosciuto una grande crescita economica, però insomma ha ancora qualche problema. L'ultima segnalazione che ho il tempo di farvi è su dal Financial Times, perché le ultime notizie appunto sulla Grecia, così chiudiamo comunque con una nota sulla Grecia, riguardano un piano del governo Tsipras che avrebbe delineato delle misure per riportare il debito della Grecia sotto il 60% del PIL entro il 2030. È un programma di 47 pagine che è stato presentato ai creditori. Ancora una volta si tratta veramente di trovare un compromesso. Tsipras deve tener conto di tutte le persone che lo hanno eletto, cercando di, appunto, di sperando che la sua elezione volesse dire fine dell'austerità, ma deve anche tener conto dei vincoli internazionali. Era, come dicevo, l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi. Settimana prossima speriamo di avere buone notizie sulla Grecia. Buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.